qui fin troppe illusioni. Pensiamo d'aver fine da avviarci a conclusioni, ma non c'è una strada, ci sono solo ostruzioni. Guidano le azioni nel grigiume delle nostre costruzioni. Servono sovversioni che ricordino la drastica esigenza di evasioni da sti mondi di plastica. Esigenza di evasioni da sti mondi di plastica. Mondi di plastica. Osservo bocce senza neve immerse in una nube tossica. Illusione di una vita assai dinamica. L'acuta osservazione svela immagine assai statica. Si vedo marionette che si muovono compatte nel teatro delle vite soddisfatte. Fanno corse su strade già percorse, ignare da aver fili sulla schiena che guidano le loro mosse. Si accontentano di risposte a domande che nemmeno hanno il diritto di essere poste. Talmente son banali e costruite sopra verità supposte. Talvolta son plagiate da schermi televisivi, sognando nottetempo di poter essere divi. Si allenano emulando un posto al sole, senza essere consci di essere copia del reale. Dall'altra svolgono ruoli operativi, con lavori poco vivi, basilari per la vita di baracca e burattini. Scombando con passione ed energia, nei momenti decisivi sono ignare di essere macchine per la scenografia. Qui fin troppe illusioni, pensiamo di aver fine da avviarci a conclusioni, ma non c'è una strada, ci sono solo ostruzioni. Guidano le azioni nel grigiume delle nostre costruzioni. Servono sovversioni e versioni del pensiero e delle azioni. Qui fin troppe illusioni, pensiamo di aver fine da avviarci a conclusioni, ma non c'è una strada, ci sono solo ostruzioni. Guidano le azioni nel grigiume delle nostre costruzioni. Servono sovversioni che ricordino la drastica esigenza di evasioni da sti mondi di plastica. È un palcoscenico, teatro della noia senza alcun effetto scenico. Lo spettatore sbocca se non porta un antiemetico. Ogni attore ormai cianotico, il cuore senza ossigeno di vita non ne ha un alito. Ha un arresto cardiaco il regista da adito. Ha un nuovo proselito per avere il seguito di questa commediola inacidita, ormai corrosa dalla muffa che affatica. Riesce a definirsi in senso lato bella vita, ma più che vita il copione di un pessimo scrittore che anziché una vibrazione un'emozione. Ad ogni atto impone che entri in scena qualche altra costrizione. Delirio di catene che è più statico di un vecchio cimitero. La compagnia teatrale è ingaggiata da un remake di Romero. Zombie con le facce fatiscenti, dolcerone per sembrare sorridenti. Si mangiano il cervello dei passanti, il contagio è immediato pochi istanti. E l'Occidente ha reclutato nuovi zombie ben pensanti. Qui fin troppe